We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024 2024. A quasi un anno dal completo spegnimento delle frequenze della TV analogica, quindi al passaggio al digitale terrestre, molte aree del paese continuano ad essere male coperte e molte abitazioni ad avere problemi di ricezione. Allora faremo il punto della situazione e cercheremo di capire anche i possibili rimedi. Parleremo anche di sicurezza informatica, di guerra, come si dice, cibernetica, informatica digitale, di sicurezza, tra poco a 2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 9 marzo 2013. Bentornati o benvenuti se è la prima volta che ascoltate 2024. Ogni settimana facciamo il punto della situazione sulla tecnologia e cerchiamo di capire insieme come la tecnologia ci cambia la vita. Pietro Lacorte si occupa della parte tecnica, oggi ci aiuta Giorgio De Luca in redazione. C'è anche Nicole che aspetta le vostre telefonate al nostro numero verde 800 24 00 24 per parlare con noi soprattutto di TV digitale terrestre, perché continuano ad esserci un sacco di problemi. Allora faremo il punto della situazione e cercheremo di capire anche quali sono i problemi. Sicuramente se ci spingiamo molto in là nel tempo, buona parte dei problemi verranno risolti con la fibra ottica. Ma da quanto tempo si parla di una rete nazionale in fibra ottica? Qualcosa sta accadendo nel paese molto lentamente. Alcuni operatori privati stanno stendendo fibra per portare servizi più veloci rispetto alla DSL, ma questo molto lentamente. E soprattutto poi rimane un grande problema: questi operatori si preoccupano e si occupano delle aree maggiormente popolate, anche quelle più ricche. Che cosa succede invece nella provincia italiana? E l'Italia è di fatto una grande provincia. Di questo naturalmente non potremo parlare tutto in questa puntata, non potremo parlare insomma in modo completo. Tra poco faremo però un accenno anche alla fibra ottica. Partiamo però da una notizia che arriva da Roma, la prima notizia arriva da Roma, poi ci spostiamo nel web, come diceva un amico, somewhere on the net. Allora, questa settimana Mario Monti, che è ancora il Presidente del Consiglio, ha detto che un attacco informatico può produrre effetti devastanti ed immobilizzare l'intero paese. Allora, attenzione, l'ha detto Mario Monti, quindi non è che l'ha detto un hacker, Kim.com o un esperto di informatica. Allora, lo ha detto all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola che prepara gli agenti dei servizi segreti, spiegando che tra pochi giorni sarà in Gazzetta Ufficiale un decreto per accrescere la capacità di rispondere a questa minaccia. Il decreto è già stato firmato e, tra le altre cose, istituirà anche in Italia il CERT nazionale. I CERT sono i Computer Emergency Response Team, cioè i team, una squadra di esperti che serve per trovare le soluzioni in casi di emergenza digitale, e naturalmente compete al CERT o ai CERT che esistono un po' in tutta Europa, un po' in tutto il mondo, strutturare la difesa, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture critiche. Però questo è importante perché siamo all'inizio di una corsa agli armamenti elettronici, lo dice Mikko Ipponen, che è responsabile della ricerca, un security evangelist, come si dice, all'interno di F-Secure. F-Secure è una delle più importanti aziende che si occupa di sicurezza informatica, è finlandese, quindi ha una prospettiva europea molto interessante, non americana per una volta. Però di questo e di altri temi, cioè della guerra digitale e di altri temi, Ipponen ha parlato con Anita Panizza. We are clearly right now in the beginning of a cyber arms race. Siamo chiaramente all'inizio di una corsa agli armamenti digitali. Non penso che abbiamo già visto alcuna guerra digitale e il termine cyber war non mi piace troppo. O comunque è abusato, visto che non abbiamo ancora visto nulla di tutto ciò. Quello che stiamo vedendo è un uso da parte dei governi di malware, backdoors e trojans per spionaggio contro altre nazioni. per spiare i propri cittadini. Stiamo vedendo governi che sferrano attacchi digitali verso altri governi come hanno fatto gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Codici maligni come Stuxnet, Flame, Dooku e Ghost fanno parte della stessa operazione. È abbastanza chiaro che ogni crisi o ogni guerra tra nazioni tecnologicamente avanzate avrà un elemento digitale e forse un giorno vedremo una vera guerra digitale. We should expect global cooperation between different governments, including your government. Ci dobbiamo aspettare in tutto il mondo una collaborazione tra governi, compreso il vostro governo, quando si tratta di combattere il crimine informatico, quelle gang che tentano di rubare soldi. Ma non ci possiamo aspettare grande collaborazione quando si parla di conflitti digitali, perché gli stati stanno lavorando per conto proprio. L'Italian Army is investigating cyber defense and cyber offense, just like any other. E l'esercito italiano sta studiando come realizzare una difesa, ma anche un attacco digitale, così come stanno facendo tutti i paesi tecnologicamente avanzati. Insomma, su questo tema c'è molta consapevolezza e molto fermento. Su questo non c'è dubbio. Beh, soprattutto tra gli addetti ai lavori, meno forse tra la popolazione. Beh, allora, su questo, cioè su come prepararsi alla guerra digitale, noi cittadini possiamo fare ben poco. Certo, possiamo votare per persone che hanno in mente come affrontare in modo serio questi temi, ma le elezioni sono già andate, almeno per il momento, e quindi ormai il voto è stato fatto. Allora, ci sono temi che invece riguardano la vita di tutti i giorni, sia quella privata e a maggior ragione quella in azienda, come ad esempio il cloud computing. When we move our documents and our services to the cloud, we basically give up the data. We no longer control the data ourselves. Quando spostiamo i nostri documenti e i nostri servizi nel cloud, sostanzialmente cediamo i nostri dati. Non li controlliamo più in prima persona. Non sappiamo veramente come i fornitori di servizi cloud li gestiscano, in che modo li mettono al sicuro, né sappiamo come vengano cifrati. E per esempio, se quando cancelliamo i dati dal cloud, questi vengano cancellati davvero o meno. For example, when we delete data from the cloud, we don't really know if they delete it or not. Questo significa che dobbiamo fidarci ciecamente dei fornitori di servizi cloud. Vendors like Amazon or Apple or Google or Dropbox. Aziende come Amazon, Apple, Google o Dropbox. E tutto ciò segna una sottile differenza, non tanto dal punto di vista della sicurezza, ma piuttosto dal punto di vista della privacy. È abbastanza chiaro che tutti i fornitori di servizi cloud operino dagli Stati Uniti e in base alle attuali leggi americane. Il governo americano ha pieno accesso a tutte le informazioni che, ad esempio, ogni europeo mette in un cloud americano. Non è necessario alcun ordine del tribunale e non devono chiederci il permesso. They can access our data. The US intelligence and government can access our data when we store it to American servers. L'intelligence e il governo americano possono accedere ai nostri dati quando li salviamo su un server americano. Questo dovrebbe preoccuparci e credo che in futuro la tendenza dei consumatori europei sarà quella di preferire servizi cloud locali, nei loro paesi e con le loro giurisdizioni. There's no stopping the cloud. We can't turn back anymore. It's quite clear that everything is going to the cloud. Non stiamo parlando di fermare il cloud, non si può tornare indietro. È chiaro che tutto si stia spostando verso il cloud o almeno una buona parte del mondo digitale. Quindi non sto dicendo questo, ma sto richiamando l'attenzione sul fatto che uno dovrebbe pensare attentamente a quello che mette o a quello che non dovrebbe mettere nel cloud e capire che una volta che ho messo i dati nel cloud, non sono più i miei dati. Put to the cloud and understand that it's no longer your data when it's in the cloud. Allora, ricordate che il cloud non è solo archiviare dati in remoto, questo è importante, l'abbiamo detto più volte, a 2024 è usare servizi in remoto, potenza di calcolo in remoto, il cosiddetto computing. Anche in questo caso, cioè sentendo le parole che ha appena detto Mikko Hipponen di F-Secure, anche in questo caso l'atteggiamento giusto non è quello radicale di chi non vuole questi servizi. Questi servizi ci sono, ci avvolgono, anche e sempre più spesso senza che ce ne accorgiamo a volte. Quindi una maggiore consapevolezza è il primo passo ed è forse la cosa più importante. Qualche consiglio generale per la nostra sicurezza digitale? Most of these attacks target the most common systems. That means your Windows computer is the one which is most likely hit by malware like this. La maggior parte delle minacce informatiche colpiscono i sistemi più diffusi. Significa che i PC con sistema operativo Windows sono quelli presumibilmente più soggetti a queste minacce. I Mac corrono qualche rischio, ma non così tanti. Quindi un consiglio potrebbe essere quello di evitare di utilizzare sistemi più comuni, che vengono colpiti più frequentemente. Avoid using the most common systems because they get targeted the most. Outside of that, the first advice I always give to people is backup. A parte questo, il suggerimento che do spesso alle persone è quello di usare il backup. Assicuratevi di avere un backup del vostro computer e del vostro telefono, in modo che possiate recuperare i vostri dati anche nel caso in cui la vostra casa vada a fuoco. In altre parole, salvate i dati offline, sul cloud o in ufficio. L'importante è avere un buon backup. Number two, make sure you patch, make sure you update your system. In secondo luogo, non dimenticatevi di aggiornare il vostro sistema operativo, il browser, i plugin e i componenti aggiuntivi, perché il modo più comune di infettarsi è navigare in rete. I malware si insinuano nel computer attraverso il browser. And then, once you've done the backup and the patching, the third thing is to make sure you have an up-to-date security product. Fatti il backup e gli aggiornamenti, il terzo consiglio è di installare l'ultima versione di un buon antivirus su computer e telefono. Questo vi proteggerà se le altre due difese falliscono. Sembra una banalità, ma quante persone fanno seriamente il backup dei dati? Allora, fatevi questa domanda, datevi una risposta. Voi di là dal vetro avete un bel backup? Uno sì, l'altro no. Vedete che già qua il 50% è a rischio. Allora, a proposito di smartphone, visto che Ippone ne ha fatto cenno, abbiamo fatto una domanda sui sistemi operativi per smartphone. When we look at the operating systems we have on our computers, se pensiamo al sistema operativo che abbiamo sui nostri computer o sui nostri telefoni, abbiamo essenzialmente tre opzioni. Possiamo avere Windows, Apple o Linux. On your phone, you can run Windows Phone, or you can run Apple iPhone, or you can run a Linux Phone. Per il vostro telefono potete usare Windows Phone, l'iPhone di Apple o un telefono con Linux, Android e Linux, quindi il tipo di telefono oggi più diffuso è basato su Linux. E visto che gran parte dei problemi di sicurezza sui computer sono relativi a Windows, uno potrebbe pensare che la stessa cosa vale per i telefonini, ma questo non è vero. The same would also be true on mobile systems, but it's not. On mobile systems, Windows has no problems at all. Sugli smartphone, Windows non ha assolutamente alcun problema. Non abbiamo mai trovato un singolo virus per Windows Phone. And Linux-based Android systems are the ones which have tens of thousands of known cases of malware already. I sistemi Android, quelli basati su Linux, sono invece quelli che hanno già decine di migliaia di casi conosciuti di codice maligno. Quindi, tra tutte le possibili distribuzioni di Linux, Android è quella che ha portato i problemi di sicurezza nel mondo Linux. iOS has a handful of malware, but they only basically affect jailbroken iPhones. iOS ha una manciata di casi di codice maligno, ma colpiscono solo gli iPhone a cui è stato fatto il jailbreak. Quindi, se usate un iPhone standard, non ci sono problemi di virus al momento. There are no malware problems at the moment. Ma questi virus o questi malware, adesso non stiamo a spiegare la differenza tra virus, ma facciamo finta di parlare solo di virus, che come possono, cosa possono fare se dovessero colpire ad esempio il nostro telefono? E attenzione, guardate che succede, eh? Mobile malware can steal money in ways that computer malware cannot. I malware che girano sugli smartphone possono ad esempio rubare soldi in un modo che non riesce a fare il medesimo codice maligno che attacca i PC. E questo perché da un telefonino infettato puoi fare una telefonata, cosa che non è possibile da un PC. Il più comune tra i malware che conosciamo oggi è un gioco per Android piratato. For example, Angry Birds or Draw Something. Per esempio, prendete Angry Birds o Draw Something. Uno lo scarica non da Google Play, ma da qualche altra parte, uno store alternativo o un sito web. Potrebbe essere ad esempio una versione gratuita di un gioco che dovresti pagare. Il gioco sembra vero, funziona per davvero, ma è una versione piratata del gioco che in background fa delle chiamate molto costose a numeri a pagamento o manda SMS a pagamento. Or sending expensive text messages to premium rate numbers. So stealing money with trojanized applications. Quindi rubare soldi con applicazioni che possono essere trovate sullo store di Google o altri negozi di app alternativi è il problema principale. Is the biggest problem. Allora, che cosa dire dei software che servono per farsi gli affari degli altri? Sentiamo che cosa ci ha risposto Ipponen. We also have found spyware for mobile devices. Abbiamo trovato anche dello spyware per smartphone, cioè software per spiare, venduto da produttori che lo realizzano principalmente per venderlo a mariti o mogli gelose che lo usano per spiare il coniuge. I don't know what's with Italians, but this mobile spyware thing is especially popular here in Italy. Non so come si dica in italiano, ma questo tipo di software sono abbastanza popolari qui in Italia. Per esempio, FlexSpy, che è prodotto da un'azienda di Bangkok in Thailandia, esiste anche in versione mobile e viene venduto per circa $100 all'anno. Spying toolkit for around 100 euros a year. Oh, attenzione, questi software sono illegali, soprattutto il loro uso è illegale. Stiamo parlando di sicurezza informatica, se ne è occupato anche il mensile del Sole 24 Ore che trovate in edicola, che parla anche, oltre che di guerra digitale, anche della fede e dell'amore nell'epoca virtuale. Allora, abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante. Anita Panizza ha incontrato Mikko Ipponen, che è responsabile della ricerca di F-Secure, questa azienda finlandese, e tra le domande abbiamo fatto una domanda sulle password. Come si fa a trovare una password sperando che sia inattaccabile? Most of the advice you'll find on passwords sucks. La maggior parte dei consigli che si sentono o si leggono sulla sicurezza delle password fa schifo. Una gran parte di questi consigli sono sbagliati. I suggerimenti sono sempre gli stessi. Scegliete sempre una password lunga, non scrivetela da nessuna parte, non rivelatela a nessuno, non usate la stessa password su diversi sistemi, usate numeri e caratteri speciali. Questi sarebbero stati degli ottimi consigli, ma 15 anni fa, quando dovevamo ricordarci al massimo 2 o 3 password. Ma oggi ognuno di noi deve memorizzare dozzine di password e non possiamo creare un'unica lunga parola segreta e usarla per tutti gli account. Non possiamo. Dobbiamo dunque trovare delle soluzioni. Una di quelle che noi raccomandiamo è quella di affidarsi ad un software di gestione delle password, che permette di ricordare solamente una parola, quella che vi darà accesso al sistema. Sarà poi il software che provvederà a creare password uniche e complesse per ogni singolo account. If you can't do that, the next best option is to divide the services you use into important services and non-important services. In mancanza di una password manager, la strategia migliore è quella di dividere i propri account in servizi importanti e servizi non importanti. Per esempio, per la posta elettronica, l'account aziendale, eccetera, si dovrà usare una password lunga e molto complessa. Strong, unique, long password. But then in the systems which are not important for you, for example, log into some magazine website. Mentre per i servizi meno importanti, come il login ad alcuni siti, si può usare una password più debole, che si può anche annotare o addirittura riciclare in molte occasioni, con la certezza che se qualcuno la ruba, non avrà accesso ad alcun dato di valore. E questo era Mikko Ipponen di F-Secure. Adesso parliamo di fibra ottica di banda larga. Proseguono i lavori di cablatura in fibra ottica di Fastweb. Questa settimana la società, che lo ricordiamo è controllata dalla svizzera Swisscom, sempre bene sapere da dove vengono gli azionisti, ha annunciato di avere raggiunto anche Brescia, Livorno, Monza, Pisa, Varese e Verona. Il servizio è già attivo a Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Bari e Napoli. Allora, si tratta di una rete mista fibra e rame che offre per ora collegamenti fino a 20 megabits, ma in futuro anche 30, 40, 50 e in alcune condizioni anche fino a 100 megabits, ma per il momento non è il caso. Ne abbiamo parlato con Mario Mella, Chief Technology Officer di Fastweb. È un piano che prevede una posa di rete in fibra ottica molto importante, nel senso che nei prossimi 2 anni per questo progetto verranno posati oltre 5.000 chilometri di rete in fibra, si raggiungerà il cosiddetto cabinet stradale e da lì si potranno dare connessioni fino a 100 mega all'utilizzatore finale. Ci sono tutta una serie di nuove tecnologie che stanno emergendo che consentono con anche questa tecnologia di dare veramente prestazioni assolutamente in linea alla fibra ottica. L'ultimo tratto, che stiamo parlando degli ultimi 200-300 metri, si utilizzerà ancora il doppino telefonico, ma su distanze così brevi adesso ci sono tecnologie innovative che consentono già oggi di raggiungere velocità ben superiori ai 60-80 megabit, ma in prospettiva ci sono tutta una nuova serie anche di standard emergenti che consentiranno di raggiungere anche svariate centinaia di megabit sul doppino telefonico. Quindi è una tecnologia particolarmente innovativa. Allora, questo tipo di infrastruttura, il cosiddetto FTTC, Fiber to the Cabinet, quindi all'armadio stradale, non direttamente in casa, è stato scelto da Fastweb e Telecom Italia, che hanno entrambe un piano di sviluppo nelle città più grandi, un piano autonomo, ma anche hanno un accordo tra di loro. Le velocità offerte da queste aziende al momento sono di 20 e 30 megabit al secondo, che potranno aumentare nei prossimi mesi sia grazie allo sviluppo tecnologico, ma anche se e quando verranno sbloccate alcune questioni di carattere regolamentare. Adesso non ci dilunghiamo su questo punto. Allora, al momento il panorama è il seguente: da un lato abbiamo detto Fastweb e Telecom che hanno scelto questa modalità, questa tecnologia, questa architettura; dall'altro MetroWeb. Allora, quello che sta facendo MetroWeb piace molto di più ai tecnici, piace molto di più anche a me perché è più lungimirante. Allora, sta cablando sia a Milano che in alcune grandi città del nord, sta posando fibra direttamente nelle case, la famosa FTTH, Fiber to the Home. Questa rete è aperta a tutti quelli che la vorranno usare. Al momento hanno firmato con MetroWeb, Vodafone e Wind, che lanceranno le loro offerte in fibra nei prossimi mesi. Qua stiamo parlando di fibra direttamente nelle case, quindi più lungimirante, già pronta per il futuro. Sicuramente l'altra soluzione, primo pezzo in fibra e poi il doppino di rame, è sostanzialmente più economica, potremmo dire che è una DSL più veloce, è sicuramente più economica per gli operatori e anche più veloce nella posa, quindi sicuramente ci sono dei vantaggi. Sentiamo ancora Mella. L'utilizzo delle tecnologie può anche essere misto, no? Quindi ci sono determinate situazioni con grande densità, grande richiesta, perché no, la fibra la si può portare anche subito. In altre realtà dove magari c'è bassa densità, meno domanda, dove questo può essere un passo intermedio anche per arrivare a quel punto, ma non è alternativo, non è una scelta che in qualche modo poi dopo non consenta di pregiudichi altre scelte. E quello che è importante è che il fatto di riuscire a soddisfare in breve tempo, perché 2 anni veramente sembrano tanti, ma per fare 3 milioni, coprire 3 milioni e mezzo di famiglie e imprese sono veramente pochi, consente di dare una risposta in tempi molto rapidi a questo tipo di domanda, sapendo che i servizi ultra broadband sulla rete mobile non sono assolutamente in grado di rispondere a questo tipo di esigenza. Cioè, la rete mobile non è alternativo all'ultra broadband del fisso. Nel senso che noi oggi quello che vediamo è che un cliente fisso fa quasi in meno di un giorno quello che prevede il pacchetto mensile più grande del mobile. Questo anche per rispondere a tutti quelli che dicono: ma potremo fare tutto con l'etere, quindi con il 4G, a parte che la rete 4G sta cominciando ad essere installata, ma i lavori vanno a rilento anche per problemi di interferenze tra digitale terrestre e 4G, magari ne accenneremo tra poco. Questo è un po' il quadro della situazione. Questo tema speriamo che torni pesantemente nell'agenda politica, visto che se n'era parlato con il governo che adesso va a scadenza. Vedremo se riusciremo a avere un governo e soprattutto anche dei ministri competenti in questa materia per dialogare con loro sulla evoluzione della rete in fibra ottica italiana. Uno dei problemi, come avete sentito, le aziende nelle zone più densamente popolate e ricche stanno procedendo, i problemi riguardano invece la provincia. Tra poco parliamo di digitale terrestre, di tutti i problemi che a quasi un anno dallo spegnimento delle frequenze analogiche ancora ci sono. Numero verde 800 24 0024. Questa è la seconda parte di 2024, abbiamo parlato di sicurezza, se vi siete di sicurezza informatica, digitale, naturalmente se vi siete persi quell'intervista è molto interessante, allora potete riascoltarla tramite il servizio podcast. Io sono Enrico Pagliarini e la seconda parte di 2024 si occuperà di TV digitale terrestre, di tutti i problemi che ci portiamo dietro a quasi un anno dallo spegnimento delle frequenze analogiche. Saluto Gianfranco Giardina, il nostro esperto di tecnologia a 360 gradi, direttore del magazine digitale dday.it, e adesso ti faccio parlare. Ciao Gianfranco. Grazie mille, ciao Enrico, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, noi abbiamo deciso di fare questa puntata, ci siamo accorti mentre la preparavamo che avremmo bisogno di 4-5 ore per spiegare tutto come al solito. Perché facciamo questa puntata oggi? Beh, facciamo questa puntata perché, come dici giustamente, a più di 9 mesi dal totale spegnimento dell'analogico, ma direi a diversi anni oramai, direi più di 6 anni dall'accensione, sì, del digitale. Sì, in Sardegna, la prima regione, io mi ricordo i litigi di alcuni giornalisti, tra cui io con il ministro Gasparri, perché già all'epoca io, ma anche Gianfranco Giardina, non eravamo molto entusiasti del digitale terrestre, insomma, abbiamo sempre sollevato qualche dubbio, visto che lo ribadiamo, visto che l'abbiamo già detto 6 anni fa. Sì, sì, certo, perché, però non rifacciamo tutta quella polemica. No, perché no, ormai c'è e ce lo teniamo. Ormai c'è e ce lo teniamo, però ancora oggi ci arrivano segnalazioni di nostri lettori, anche ascoltatori della trasmissione, che hanno problemi di ricezione sul digitale terrestre e rimpiangono la copertura che avevano prima con l'analogico. Attenzione, a lamentarsi si fa sempre in tempo, va detto come prima cosa che il digitale terrestre ha portato tante cose buone. Prima di tutte un numero di canali molto più alto e, quando siamo illuminati bene dal segnale, l'impianto antenna va bene, anche una qualità di immagine nettamente superiore rispetto all'analogico. Qualche problema evidentemente c'è stato, non soltanto nei disagi del passaggio al digitale, cambiare televisori, aggiungere il decoder, che poi soprattutto per le persone anziane è risultato molto, molto complicato, ma anche perché il segnale è un pochino più delicato forse, o comunque ci sono dei problemi nella copertura del territorio, per cui non tutti ricevono un buon segnale digitale, oppure non tutti hanno un impianto sufficientemente sofisticato, diciamo così, per riceverlo correttamente. Qui i problemi si sommano, si mischiano, ma certo che quando in una certa zona ad aver problemi sono tanti, se non addirittura la maggioranza, beh, sicuramente è la copertura del territorio lì che è inadeguata. A questi problemi si aggiungeranno molto presto anche nelle interferenze di cui abbiamo parlato 2024, causate dal 4G, dall'LTE, quindi le frequenze della nuova generazione di telefonia mobile che, almeno per una parte di frequenze televisive, generano disturbi. Allora, non è ancora stato raggiunto un accordo tra operatori telefonici, in modo particolare Ministero dello Sviluppo, per capire come poi procedere per eventualmente risolvere questi problemi. Allora, di questo parleremo, mi pare che c'è poco da aggiungere oggi, Gianfranco, su questo punto. Beh, rispetto a quanto avevamo già detto c'è poco da aggiungere. La cosa più importante è che i servizi 4G che sono già attivi e che sono già pubblicizzati e in vendita non sono fatti sulla banda degli 800 MHz, che è quella che va a disturbare i programmi televisivi, ma su quella dei 1800. Esatto. Ecco, quindi ancora noi, anche se i servizi 4G sono già attivi, non abbiamo ancora visto questi disturbi. Sappiamo che ci saranno, ma è proprio perché ci saranno, quasi c'è una corsa da gamberi tra le telecom a ritardare più possibile le accensioni, in modo tale da non prendersi le colpe di questi disturbi. Sì, infatti diciamo che gli 800 MHz sono per il 4G la frequenza più interessante, potremmo dire la migliore frequenza. Allora, diciamo subito che da informazioni che abbiamo che Wind, che è la più soggetta a questi possibili, molto probabili, quasi sicure interferenze, partirà con il 4G quest'altro anno. È quasi certo. Insomma, quest'altro anno 2014. 2014. E gli altri comunque stanno fortemente rallentando gli investimenti. Su questo comunque parleremo quando avremo delle notizie più certe, magari anche già la prossima settimana. Oggi invece ci occupiamo dei problemi che ha il digitale terrestre così come li conosciamo oggi. Adesso abbiamo alcune digital news. Digital news. Allora, iniziamo da una multa, da una mega multa che l'antitrust europeo ha dato a Microsoft per non avere garantito agli utenti europei di Windows di scegliere il browser, cioè il programma di navigazione su internet. Allora, la diffusione di Windows su oltre il 90% dei computer è una posizione di mercato dominante e offrendo solo Internet Explorer, Microsoft ne ha abusato. Microsoft si era impegnata nel 2009 a fornire per 5 anni agli utenti Windows una schermata di scelta per il browser di navigazione su internet, ma con l'arrivo di Windows 7 Service Pack 1, da febbraio 2011 a luglio 2012, Internet Explorer era l'unica possibilità. Microsoft ha sostenuto che si trattò di un errore tecnico. Naturalmente a Bruxelles si sono messi a ridere. Allora, Apple ha vinto a Londra una causa contro Samsung. L'azienda coreana aveva accusato il produttore dell'iPhone di avere violato 3 dei suoi brevetti, in particolare si tratta di tecnologie legate al 3G. E mentre Samsung si prepara al lancio del nuovo Galaxy S4, il 14 marzo a New York ha annunciato che entrerà nel capitale di Sharp pagando 111 milioni di dollari per acquisire il 3% dell'azienda. Sharp, lo ricordiamo, è uno dei principali fornitori di display LCD di Apple. Un'ultima notizia riguarda la musica in streaming su internet. È arrivato anche in Italia Radio, RDIO, .com, creato tra gli altri da Nicolas Zennström, uno dei creatori di Skype che abbiamo anche ospitato e intervistato 2024. Allora, offerta simile a quella di Spotify e degli altri, quindi 5 euro al mese solo su PC, 10 euro anche su dispositivi mobili. Per il momento Radio ha lanciato un'offerta gratuita senza pubblicità per i nuovi iscritti che dura 6 mesi. Nel frattempo, a proposito di musica in streaming, Google e anche Apple stanno pensando ad un servizio di questo tipo su abbonamento del tipo All You Can Eat. Paghi e ascolti tutto quello che vuoi. E così poi tutti quegli altri che fanno musica in streaming moriranno, perché se Google e Apple fanno un servizio del genere non capisco che spazio abbiano gli altri, però vedremo come il mercato si trasformerà. Gianfranco, visto che sei qui con noi oggi, questa mossa di Samsung che si è messo d'accordo per comprare il 3% di Sharp, che cosa? Beh, il 3% è una quota, anche se Sharp è un colosso evidentemente, ma è una quota ovviamente trascurabile nell'ottica del controllo dell'azienda e quindi una possibile scalata. Potrebbe essere una manovra finanziaria, ma più ragionevolmente, visto che Sharp è molto forte nella produzione di display anche e soprattutto di piccolo formato e che ha alcuni brevetti come il display IGZO. Bruttissimo nome, ma splendido display, display, esatto, bisogna andare a vederlo nelle fiere internazionali. Per adesso, ecco, questo display IGZO è molto promettente e Samsung evidentemente ha capito perfettamente che per continuare a mantenere la leadership così a 360 gradi su tanti fronti, dai TV ai telefoni ai tablet eccetera eccetera, bisogna avere una filiera di fornitori molto fedele. Essere nel 3% nella quota di Sharp sicuramente permette un piccolo rapporto preferenziale di Samsung su Sharp, ma soprattutto avere piena informazione su quello che Sharp sta combinando prima che si allei magari con Apple. Questa è un'ipotesi tutta mia, evidentemente. Bene, allora chiudiamo questo capitolo, riapriamo quello della TV digitale terrestre. Saluto Fabrizio Bernacchi, che è responsabile didattico di Eurosatellite. Bernacchi, benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno. Noi oggi l'abbiamo invitata perché lei è un esperto ed è una di quelle persone preziose nel mercato, perché insegna, fa capire quello che sta succedendo agli antennisti, ai tecnici. Che cosa fa e che cosa fa Eurosatellite? Ma diciamo, Eurosatellite da ormai quasi 25 anni si occupa appunto di formazione professionale nel campo delle tecnologie di comunicazione, in maniera particolare, come dice il nome, partita dal satellite, ma ha seguito fin dagli anni 96-97 anche il passaggio della TV verso il mondo digitale. Senta, sono ormai da anni che ovviamente operiamo con i tecnici sul settore per preparare la strada a questa evoluzione tecnologica importante. Senta, a proposito di digitale terrestre, lei che cosa sta dicendo ai suoi allievi? Ma diciamo che è ovviamente una evoluzione, come dicevo prima, un'evoluzione tecnologica, diciamo, di tutto il paese, perché ovviamente non è solo per l'Italia, è una questione europea e mondiale. Diciamo, l'aspetto digitale dell'informazione televisiva rende questo mondo, diciamo, intanto sinergico con tanti altri sì, mondi. Sì, però a parte, diciamo, questo scenario, diciamo, a proposito dei problemi che ci sono, che cosa, come la descrive la situazione in Italia? La situazione in Italia è, direi, abbastanza buona per tutto il territorio. Ci sono delle aree più, diciamo, più critiche per effetto innanzitutto dell'orografia del terreno e soprattutto per effetti legati alla rete di distribuzione. Non ci scordiamo che il passaggio al digitale sta utilizzando la rete programmata e gestita e progettata per l'analogico, il che ovviamente, cambiando sistema di comunicazione, non è l'ideale. D'altro lato non si poteva creare una struttura distributiva ex novo, bisognava ovviamente riutilizzare gli stessi siti di trasmissione e questo ha comportato e sta comportando un periodo di rodaggio e di aggiustamento, ma che piano piano sta colmando le lacune. Bene, riprendiamo tra circa un minuto, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, tra poco sentiremo anche i nostri primi ascoltatori e faremo anche un piccolo giro dell'Italia per capire il parere dei tecnici che operano sul territorio. Sono le 16:18 minuti, stiamo parlando dei problemi che ci sono in tutta Italia per ricevere il digitale terrestre. Allora sentiamo anche il parere dei tecnici che operano sul territorio. Andiamo a Livorno con Alessandro Biagetti. Buongiorno Biagetti. Buongiorno. Allora, nella vostra zona come si riceve il segnale del digitale terrestre in generale? Il segnale del digitale terrestre nella zona è abbastanza buono. Abbiamo avuto dei grossi problemi all'inizio con lo switch off, però ora insomma stiamo cercando di risolverli. Senta, i problemi che non ne ha nessuno di problemi o qualcuno hanno un problema? No, ci sono stati dei problemi grossi con alcuni tipi di canale, tipo sul MUX Timb 1, canali come D-Max, che per la popolazione era abbastanza importante, mancava totalmente, cioè proprio stato un momento sparito. Invece ci sono dei problemi sulla telefonia mobile in quell'area. Biagetti, grazie per essere stato con noi. Valerio Lupini invece è nella zona di Perugia, che orograficamente è sicuramente un po' più complicata. Come stanno le cose, Lupini? Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo è così, la nostra zona è più complessa. Orograficamente il territorio è quello che è, gli impianti che prima, come faceva riferimento l'ingegner Bernacchi, erano predisposti per l'analogico, purtroppo per il digitale nella maggior parte dei casi non sono idonei e riscontriamo diversi problemi attualmente sulle reti Mediaset, che sono quelle più complicate da ricevere bene. Secondo lei, Lupini, poi faccio la stessa domanda anche a Bernacchi, effettivamente il nostro è un territorio complicato, lo è per tutto, anche per fare le ferrovie, le autostrade, quindi quando costruiamo infrastrutture i problemi esistono, forse ne avremo meno per fare la fibra ottica, ma se ne lasciamo perdere. Effettivamente è una parziale giustificazione che gli operatori televisivi hanno in questo caso? Io secondo me sono andati a colmare alcune lacune proprio per i problemi del territorio con il TV-SAT, perché ci sono delle zone d'ombra dove proprio il segnale non arriva. E questa è una soluzione, insomma. Grazie Lupini. Allora Gianfranco, spieghiamo quello che ha appena detto Lupini, perché prima ti faccio la domanda. Effettivamente sì. Il fatto che il nostro sia un territorio complicato va a parziale giustificazione dei broadcaster, quindi degli operatori televisivi che hanno coperto in alcune aree non tanto bene il territorio? Il territorio italiano era così anche prima dell'avvento del digitale, eh? Non è che è diventato complicato ora, era complicato anche per l'analogico. Diciamo che c'è una difficoltà certa nel passaggio al digitale, che è il fatto che i disturbi sull'analogico, quella neve, gli sdoppiamenti che c'erano quando il segnale era imperfetto, erano molto più facili da tollerare, non si vedeva bene ma si vedeva e comunque si sentiva. Il disturbo in digitale invece è un pochino più aggressivo quando compare con degli scorrettamenti molto fastidiosi che non consentono di vedere bene l'immagine, quasi dei blocchi, e poi a un certo punto scompare completamente l'immagine e addirittura potrebbe non essere sintonizzabile momento in cui faccio la scansione dei canali o non correttamente sintonizzabile. Quindi il disturbo è un po' più fastidioso. A questo va sommato appunto che, siccome gli impianti erano pensati per l'analogico e non per il digitale, qualcuno può aver pensato, ma questo è un sospetto, non ho dati da questo punto di vista, che fosse più semplice, laddove si parla di zone non particolarmente popolose, evitare di aggiungere nuovi impianti che avrebbero garantito una buona copertura sul digitale terrestre e rimandare invece a altre soluzioni quella parte di popolazione sicuramente minoritaria, perché oramai sappiamo che quasi tutti ricevono il digitale terrestre, però c'è ancora una parte che ha serie difficoltà, e dalle nostre segnalazioni è minoritaria, ma poi perché è sparsa qua e là, ma poi sommata tutto insieme parliamo di tante tante persone, probabilmente più di 1 milione di persone. Sì. Dunque, il tecnico che abbiamo sentito poco fa, Lupini, faceva riferimento a TVSAT. Allora spieghiamo subito di che cosa si tratta, perché questa è una delle soluzioni, perché poi giustamente gli ascoltatori dicono: vabbè, i problemi ci sono, se io ho un problema che cosa devo fare? TVSAT è una piattaforma di garanzia che è nata proprio al momento del lancio, poco dopo diciamo, il lancio del digitale terrestre, per ritrasmettere via satellite i principali canali, tutti quelli nazionali diciamo, del bouquet digitale terrestre anche via satellite, quindi per consentire a chiunque abbia una parabola di ricevere questi segnali. Per ricevere questi segnali serve comunque una card, cioè un decoder dedicato, o una cam, che è quell'oggetto che viene infilato nelle common interface dei TV, con una card. Perché? Perché questi contenuti sono ovviamente criptati, perché non possono essere distribuiti via satellite in chiaro, anche per motivi di diritti, perché escono anche dai confini nazionali, quindi sarebbe poi un problema di diritti internazionale. Sì. E serve questa cam, però non c'è un abbonamento, non c'è un canone di abbonamento. Bisogna essere in regola col canone tradizionale, insomma. Poi lo chiediamo, sì. Poi, esatto, poi lo chiediamo ad Alberto Sigismondi, che tra poco sarà con noi, a proposito di TV. Bernacchi, chi ha problemi di ricezione, come li risolve? Cosa consigliate voi? Ma, diciamo, un altro aspetto fondamentale che bisogna sottolineare per quanto riguarda la rete è il fatto che si utilizzano reti cosiddette SFN, parola difficile, ma significa essenzialmente che mentre in analogico i trasmettitori vicini utilizzavano frequenze diverse e quindi era più difficile avere interferenza, oggi con la rete SFN i trasmettitori utilizzano la stessa frequenza su tutto il territorio nazionale. Il che vuol dire ovviamente che se la mia antenna accidentalmente vede due di questi siti contemporaneamente, il decoder si vede arrivare due segnali, ma questi due segnali sono uno ritardato rispetto all'altro. Quindi il decoder, per scegliere dove andare ad aggiustare la propria decodifica, ovviamente si fida spesso del livello più alto del segnale tra i due. Questo che cosa comporta? Che spesso, quando i segnali sono molto simili come livello, il decoder comincia a saltare sulla prima e sulla seconda, sulla prima e sulla seconda. Impazzisce. E questo comporta lo squadrettamento, come esattamente prima diceva. Però io che sto a casa, sì, potrei anche, diciamo, sicuramente non lo so, però vorrei sapere come risolvere questo problema. È un problema di decoder, perché alcuni ad esempio dicono, alcuni decoder che costano molto poco sono... creano i problemi, o è un problema d'antenna, oppure è un problema addirittura del broadcast, cioè che io a casa non riesco a risolvere. Diciamo che il broadcaster deve metterci del suo, nel senso che la taratura di queste reti deve essere fatta in maniera molto raffinata sul territorio e naturalmente con una verifica puntuale sul territorio stesso. Questo comporta del tempo. Oggi ormai questa situazione si sta stabilizzando e quindi queste problematiche legate agli aspetti esterni dell'antenna si riducono enormemente in molte zone, per cui diciamo così ormai questa situazione sta andando verso una soluzione, perché è il broadcaster stesso che ci pensa. L'altro problema invece legato ai decoder, abbiamo notato dagli studi che abbiamo fatto sul territorio che molto spesso i decoder cosiddetti più economici, quelli che per intenderci costano i 15-20 euro al supermercato, ecco, quelli in realtà sono di bocca buona, come diciamo, cioè nel senso che si accontentano di poco per poter comunque fare il loro lavoro. Ci sono poi decoder invece che hanno tendenza ad essere un pochino più sofisticati dal punto di vista dell'elaborazione delle informazioni digitali che arrivano e in questo caso ovviamente dovendo lavorare meglio, diciamo così, hanno bisogno di più ossigeno, quindi il segnale deve essere un pochino più performante. Quindi diciamo, non sempre i decoder che costano meno sono quelli che alla fine per l'utente funzionano peggio. Mm. Senta, per quanto riguarda l'antenna, sì, che cosa, cioè, è necessario fare delle operazioni o è irrilevante quasi? Proprio per aggiustarsi rispetto a questi problemi, diciamo, dell'etere che, a cui accennavo prima, chiaramente l'utilizzo dell'antenna è qualcosa che va studiato con accuratezza. Normalmente le vecchie antenne funzionano tranquillamente, però ecco, c'è questa situazione interferenziale a cui facevo riferimento che potrebbe far nascere la necessità di quantomeno controllare, ma anche eventualmente riorientare e ricollegare antenne, diciamo, più performanti rispetto a quelle che utilizzavamo in analogico. Sì. Gianfranco, alcune vecchie antenne hanno magari un problema di filtri che non prendono tutti i canali, cioè ricevono molto bene, però magari io continuo a non vedere Rai 5. Questo capita molto frequentemente in alcune tipologie di impianto condominiale condiviso, che appunto viene filtrato a monte per evitare dei disturbi, e quindi vengono passati soltanto alcuni canali. Con il passaggio al digitale c'è stato un grande tourbillon di canali, per cui sicuramente quelli importanti o quelli seguiti sono cambiati, quindi tutti questi impianti normalmente sono stati riadeguati con nuovi filtri o con filtri addirittura digitali, per quindi programmabili, per avere tutti i canali che servono. Non tutti gli impianti però potrebbero ricevere tutto, proprio perché magari semplicemente il numero di filtri che è disponibile non basta per coprire magari tutti i nuovi canali, tutte le nuove frequenze che sono state poi attivate. In più c'è un discorso che ancora in alcune zone ci sono ancora dei cambiamenti, delle modifiche, dei movimenti sulle frequenze. Non scordiamoci che proprio il 4G che va a occupare la banda 800 occupa dei canali che sono stati liberati gli ultimi a fine del 2012, e quindi c'è ancora movimento sui canali e quindi necessità di nuovi interventi e riadeguamento sugli impianti, soprattutto questi. Senti, canalizzati. Quello che dicevamo poco fa dei decoder vale anche per le TV? Cioè, diciamo, ormai tutte le TV hanno un decoder integrato che riceve il digitale terrestre. Sì. La qualità cambia molto? Più che altro cambia banalmente la sensibilità. Ecco, come se alcune TV con segnali di soglia, ovviamente con segnali buoni funzionano tutti bene se sono TV seri, ma con segnali di soglia che hanno già altri problemi, magari per l'impianto d'antenna imperfetto, magari per una situazione orografica non ideale, eccetera, eccetera. Quindi un segnale imperfetto, alcuni TV se la cavano e altri sganciano più frequentemente. In più c'è l'aspetto legato a una, soprattutto quando ci troviamo su questa soglia, a una discreta sensibilità agli eventi meteo che sull'analogico c'era meno o comunque era meno percepibile. Cioè, quando piove o nevica non si vede la TV. Sì, ci sono molti casi, molte segnalazioni noi abbiamo. Sì, anche alcuni ascoltatori, uno che ci ha chiamato poco fa, che però non riusciamo a recuperare. Alberto Sigismondi è consigliere delegato di TV, benvenuto a 2024, Sigismondi. Buonasera a voi e agli ascoltatori. La vostra, potremmo dire, è forse in caso di interferenza la soluzione migliore, però bisogna avere la parabola. Ci dica proprio come funziona TV. Ma allora, TV è una società, TVSat è la piattaforma satellitare che abbiamo messo in piedi nel 2009 sul modello inglese, francese, di FreeSat o di FranceSat, proprio per andare a coprire quelle aree che hanno problemi di ricezione, di copertura. Ecco, le reti terrestri non sono al 100% di copertura, quindi era previsto, e poi come avete avuto modo di riscontrarlo anche voi nella prassi e nel vostro rapporto con gli ascoltatori, è poi successo che una percentuale che varia a seconda di regione in regione ha seri problemi di copertura o addirittura non ha copertura, oppure ha una copertura parziale, cioè vede alcuni canali ma non ne vede altri, proprio perché la copertura delle reti non è perfettamente coincidente e quindi c'è anche questo fenomeno. TV-SAT offre al mercato delle specifiche tecniche che sono state abbracciate da una serie di costruttori che quindi hanno costruito apparati compliant, diciamo, con queste specifiche e questi costruttori vendono poi sul mercato dei decoder satellitari o delle cam in bundling insieme alla smart card TV-SAT. I decoder viaggiano a prezzi normali, nel senso che sono decoder performanti di qualità e tu utente ti compri il decoder TV-SAT e all'interno del decoder trovi una serie di servizi, cioè trovi il fatto che c'è un EPG che funziona per davvero, un LCA. Vabbè, poi magari li raccontiamo tra poco. Comunque è un decoder in sostituzione, se uno non vede il digitale terrestre può utilizzare questo decoder. Riprendiamo questa puntata dedicata alle interferenze sul digitale terrestre. Abbiamo sentito che un'alternativa molto interessante è TV-SAT, questa piattaforma satellitare che con un decoder ha collegato alla parabola ci fa vedere tutti i canali del digitale terrestre. Sigismondi, potremmo quindi dire che tutto era previsto, allora chi dice io ho dei problemi di ricezione dovrebbe automaticamente essere dirottato su TV-SAT, forse non è così nota questa piattaforma, i canali Rai e i canali Mediaset non mi sembra che la pubblicizzino più di tanto. Beh, allora, questo è un tema delicato, nel senso che TV e TV-SAT hanno svolto opera di promozione soprattutto nelle aree e nel periodo di switch off. Il nostro mandato non è quello di proporsi come una sostituzione delle reti terrestri, ovviamente, perché le reti terrestri comunque esistono, sono state perfezionate, esistono anche sforzi economici notevoli sia per acquisirle che per esercirle. È comunque vero quello che lei ha detto, nel caso dopo aver acclarato che il mio impianto pur adeguato non riceve, il mio impianto terrestre pur se adeguato, ispezionato, manutenuto, non riceve il digitale terrestre, la offerta di TV-SAT che è appunto free, nel senso che non ha abbonamento, come diceva il suo collega all'inizio, è sicuramente un'alternativa o se non addirittura un'alternativa, l'unica scelta possibile. È senz'altro vero. Devo però avere ed essere in regola col canone Rai? Ma questo riguarda tutti i cittadini italiani, non quindi, gli spettatori certo di TV-SAT. Certo. Tutti i cittadini italiani che devono pagare la tassa sul possesso di un apparato televisivo. Quindi a prescindere, anche, certo, uno deve essere onesto a prescindere da TV-SAT, dice, giustamente. Sì, sì, certo. Certamente. Sentiamo Giuseppe Conte, che è un tecnico, ci chiama dalla Calabria. Conte, buongiorno, di preciso da dove ci chiama? Sì, buongiorno, dalla provincia di Cosenza, certamente il paese è spezzano al paese. Vabbè, perfetto. Come vanno le cose sul digitale terrestre? Guardi, diciamo che nell'80% dei casi la situazione è buona, salvo diciamo qualche occasione magari dove il segnale non arriva, ma io penso che oltre al discorso che gli impianti TV presenti qui da noi sono un po' obsolete, anche perché il parco antenne almeno costa di 30 anni di installazione da questa parte. Il problema più che altro poi lo fanno anche i ripetitori, che in alcune zone praticamente il segnale non arriva, ma è dovuto anche a chi è che trasmette, non tanto al discorso apparato antenna e quant'altro, sì. Anche perché non su tutti i ripetitori sono presenti la maggior parte dei pacchetti digitale terrestre, quindi vari MUX. Sì, sì. Grazie Conte per essere stato con noi. Luigi da Isernia, buongiorno. Salve, buonasera a tutti. Allora, io sono un installatore di vecchia data, permettetemi, sono 30 anni circa che faccio questo tipo di attività. Allora, io suddividerei i problemi in due distinti casi. Allora, il primo è che purtroppo buona parte degli installatori hanno un comportamento davvero singolare, cioè nel senso che loro non vanno ad applicare delle regole che sono essenziali per poter distribuire il segnale correttamente, né tantomeno hanno la strumentazione, sempre la strumentazione, per poter capire se nella zona di ricezione sono disponibili o meno i vari segnali. Cioè lei dice ci sono molti dilettanti. Assolutamente sì. Secondo problema? Il problema è che questo poi si va a ripercuotere inevitabilmente anche con componenti di pessima qualità. Cioè il nostro interlocutore principale, che è un tecnico, sa perfettamente che un impianto TV necessita alcuni accessori. Sì, guardi, è tutto molto chiaro e molto semplice. Bernacchi di Eurosatellite, è vero che in buona parte del territorio, ho il sospetto che sia vero, ci sono tecnici che sono un po' dilettanti e anche che usano materiale poco scadente, o non è quello il problema? No, c'è anche questo problema, ovviamente. Il passaggio alla TV digitale ha creato mercato, chiaramente, e purtroppo quando c'è un mercato, soprattutto in queste condizioni che viviamo in questi anni, ovviamente c'è molta gente che ci si mette dentro e quindi in alcuni casi spesso si improvvisa pure. Diciamo però che è importante sapere che un installatore deve avere un riconoscimento professionale, quindi chiaramente se ha il riconoscimento professionale deve avere anche le competenze per poterlo ovviamente mettere in pratica, questo è importante. Quindi diciamo quando un installatore può fare una certificazione, quando un installatore può certificare la regola d'arte sull'impianto, quella è la prima garanzia che l'utente deve cercare. Senta, io che cosa devo chiedere però al tecnico? Se è iscritto ad un albo, se ha un patentino, se che cosa? Dunque, esiste una legge che si chiama la numero 37 del 2008 che prevede quali sono i requisiti professionali per poter esercitare l'installazione. Sì, ma io che sto a casa, cosa devo fare, scusi? Prego? Io che sto a casa, che chiamo un tecnico, cosa devo sapere? Lei può chiedere di esibire al tecnico il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio a questo albo. Perfetto, questo che è la lettera B si chiama appunto classificato come lettera B della legge 37 del 2008. Certo, però capisci che poi un cittadino normale non cita la legge con l'allegato, la lettera. Fabio da Lecce, buongiorno. Buonasera. La mia domanda era un pochettino questa. Io sono qui nel Salento, dove spesso e volentieri nel periodo estivo le temperature sono elevate e spesso e volentieri c'è un forte vento di scirocco. Quando ci sono queste giornate e la televisione non si vede, il segnale è fortemente disturbato. C'è stato detto più volte che a breve sarebbero stati risolti i problemi, però oggettivamente, ripeto, ogni qualvolta c'è un forte vento di scirocco oppure le giornate caldissime, abbiamo difficoltà di vedere il segnale. Grazie Fabio. Grazie. Gianfranco, è normale? Può capitare, gli effetti possono essere due, poi magari Bernacchio ce li spiega anche meglio, ma il vento non sposta le onde elettromagnetiche, ma può spostare le antenne. E quindi se è un vento particolarmente forte, anche se le antenne TV, contrariamente alle parabole, hanno come dire un CX migliore, penetrano l'aria meglio e quindi vengono spostate meno, però può anche capitare che il vento possa avere un influsso. Mentre certe condizioni meteo, soprattutto molto assolate, che cambiano tutta la risposta dell'atmosfera alla propagazione delle onde elettromagnetiche, queste sì possono avere un influsso, cambia la propagazione e quel problema di cui parlava Bernacchi prima, per cui due segnali provenienti da due impianti diversi si sommano ma in maniera maligna, quindi creando un disturbo, ecco, questo può capitare più frequentemente. Infatti è proprio d'estate che si ha la massima frequenza di questo tipo di disturbi. Claudio dalla provincia di Grosseto, buon pomeriggio. Buonasera, come ha detto lei, io chiamo dalla provincia di Grosseto, abito a Gavorrano, una frazione davanti al mare. Avrei due quesiti da farvi. Da me il digitale si vede forse al 50%, una percentuale comunque molto bassa. Io ho messo il satellite, io ho fatto anche abbonamento con Sky. Non vedendo niente in digitale ho dovuto fare l'abbonamento con Sky. Una volta fatto l'abbonamento con Sky ho anche acquistato la chiavetta Sky Key, se non erro questo nome. Anche in questo caso non vedo lo stesso quei canali che non vedevo anche senza l'abbonamento. Vabbè, questo è normale perché quello è un decoder per il digitale terrestre, quindi se non lo vedi in un caso non lo vedi neanche con quella chiavetta. Vuole aggiungere qualcosa in 30 secondi? Sì, l'ultima cosa io mi chiedo, ma pagando il canone allo Stato, lo Stato quando dà questo servizio non lo dovrebbe dare al 100% efficiente? Certo, grazie. Lo Stato le risponde, abbiamo creato la piattaforma TVSAT, immagino. Poi chiediamo anche a Sigismondi, Gianfranco. Beh, la soluzione, sicuramente sulla Digital Key non poteva funzionare, cioè manca il segnale in antenna, quindi sì, mettendole dentro qualsiasi decoder non funziona. Mentre, avendo già la parabola puntata su Sky, sullo stesso puntamento ci sono i satelliti di TVSAT, cioè le trasmissioni di TVSAT, quindi la stessa parabola può essere usata anche per TVSAT, anche contemporaneamente, quindi il consiglio è quello di affiancare un decoder TVSAT, sì, o una cam TVSAT da inserire nel proprio TV, e questo già se il TV è chiaramente ha il ricevitore satellitare. Questo risolve il problema di quasi tutti i canali, cioè dei canali che sono sulla piattaforma TVSAT. L'ultima parte di 2024, sentiamo un altro dei nostri ascoltatori e poi con Sigismondi concludiamo per parlare di TVSAT anche in modo più approfondito. Emanuela da Genova, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di farmi intervenire. Senti, io appena era uscito l'anno scorso il digitale, avevo preso due decorder con l'intenzione poi di cambiare i vecchi televisori. Per 8-9 mesi tutto ha funzionato bene, poi i programmi, i canali, specialmente Rai e Mediaset, non si vedevano più, saltavano i pixel, al che ho cambiato i due televisori mantenendone uno, quello piccolo, in cucina, che improvvisamente ha ricominciato a ricevere il segnale. Adesso ha funzionato bene per un paio di mesi, adesso solo lui, quello vecchio che funziona col decoder, Mediaset e Rai 5 è di nuovo offuscato, non le vede più. Gli altri due nuovi con decoder integrato in 3HD funzionano benissimo. Emanuela, grazie per aver chiamato. Bernacchi, concludiamo e così diamo una risposta oltre che Emanuela, ma ricapitoliamo che cosa deve fare un cittadino che non riceve alcuni canali o vede male un po' tutto il digitale terrestre. Bene, mi rifaccio anche alla signora che è intervenuta ultimamente. Diciamo, il problema legato all'impianto è fondamentale, perché abbiamo parlato di antenne, abbiamo parlato di centrali di testa, filtri, non filtri, eccetera. La distribuzione diventa fondamentale, nel senso che spesso succede, domande frequenti sono queste: perché in salotto vedo e in camera da letto no? Perché con il decoder A vedo, con il decoder B no? Ecco, sono proprio spesso legati alla distribuzione del segnale all'interno dell'impianto domestico. Quindi importantissimo è che l'impianto sia fatto, come si dice, secondo la regola d'arte. Questo è importante. Per il resto vorrei precisare il discorso sulla copertura RAI. La RAI ha un, diciamo, committente di Stato, ha l'obbligo di coprire con il MUX 1 soltanto, il MUX 1, tutta la popolazione. Quindi questo è importante dirlo. Poi la RAI ha altri MUX. Scusi, il MUX 1 è RAI 1, RAI 2, RAI 3? RAI 1, RAI 2, RAI 3, esattamente. Perfetto. E all'interno dello stesso MUX troviamo anche RAI News. Sì, il MUX è il multiplex, i tecnici parlano così. Esatto, il multiplex vuol dire il contenuto trasportato in un canale. Perfetto, perfetto. Il numero di programmi trasportati in un canale. Sì. Dopodiché RAI ovviamente ha una programmazione molto più vasta, ma su questo fatto c'è una, diciamo, non c'è una precisa imposizione da parte dello Stato italiano di dover arrivare a tutti quanti. E poi ovviamente c'è TVSAT che completa eventualmente la possibilità di accedere a questa offerta. Bernacchi, io la ringrazio, deve venirci a trovare perché è interessante quello che ci ha raccontato e grazie anche per l'opera che fa lei e naturalmente Eurosatellite, perché insegna ai tecnici e naturalmente quelli a cui insegna lei sono quelli specializzati. Grazie, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima. Buona giornata. Grazie, grazie. Alberto Sigismondi, allora, che è consigliere delegato di TV e naturalmente anche di TVSAT, abbiamo insomma raccontato questa alternativa, però ci spieghi bene che cosa si trova su TVSAT, perché ad esempio non ci sono tutte le TV locali, cosa che molti italiani gradiscono vedere. Sì, nel senso che non è che su TVSAT non ci siano le televisioni locali, è che molte televisioni locali non hanno una trasmissione satellitare, cioè non acquisiscono spazio sul satellite che è a 13 gradi e quindi non è proprio possibile vederli sul satellite, né con TVSAT né con qualsivoglia ordigno come dire, fantascientifico. È proprio una scelta legata ai costi, perché la trasmissione, innanzitutto le televisioni locali, proprio per la loro natura locale, sarebbero un po' in contraddizione laddove scegliessero la trasmissione satellitare, che per definizione invece copre tutto il paese. Ma al di là di questo, alcune, le più grandi, le più grosse, lo fanno, e però sono comunque una minoranza, sicuramente una minoranza. Sì. Il segnale è un segnale criptato, per quale motivo? Per quello che diceva prima Giardina, il parte dei contenuti sono criptati per ragioni di diritti, nel senso che un emittente, un editore televisivo compra, che ne so, la serie Pinco Pallo, nell'acquisto di quella serie lui comprerà solo i diritti, sì, nazionali, e il satellite per natura fa il cosiddetto overspilling, cioè trasmette su un cono che è ben più grande dell'Italia stessa, copre tre quarti dell'Europa. Quindi se fosse gratuito un austriaco lo può vedere, anche un tedesco, eccetera. Se fosse libero e non criptato, certo. Senta, diciamo così, se uno vuol farsi l'alternativa TVSAT, più o meno quanto spende? Ma allora, i decoder viaggiano tra gli 80, secondo poi delle promozioni, tra gli 80 e i 140-150 euro, cioè dall'SD classico invece all'HD con connessione broadband, eccetera, eccetera, si arriva anche a 140-150. Un HD può anche essere comunque sullo scaffale trovato a 110-120. Poi, a seconda se la parabola, c'è già o non c'è, certo, esatto, è chiaro. Poi c'è da aggiungere l'installazione alla parabola, e lì si apre, come dire, capitolo interessante, che è quello dell'onestà, della competenza dell'installatore. Certo. Noi devo dire, su questo abbiamo fatto un grande lavoro di presenza nel mondo degli installatori, per cui se uno va sul sito TVSAT trova indirizzi di installatori convenzionati, tra virgolette, che quindi operano secondo dei criteri abbastanza definiti e non ci sono sorprese. Chiaro. Senta, un'altra cosa che non c'è su TVSAT sono i servizi a pagamento, e per il momento l'unico servizio a pagamento sul digitale terrestre, mi corregga Giardina se sbaglio, è Mediaset Premium. Sì. Perfetto. No, c'è qualcos'altro, diciamo Europa 7, altre piccole, piccole realtà. Però, vabbè. Diciamo, è quello più fondamentalmente importante, sì, esatto. Premium. Ecco, se uno volesse usufruire di quei servizi non può farlo tramite TVSAT? No, per ora no, per ora non ci sono servizi a pagamento su TVSAT. E c'è, diciamo, un progetto per farli? Ma allora, diciamo che è nelle possibilità. Un progetto che debba partire a pochi mesi, direi no, però è anche vero che il satellite come mezzo di trasmissione, come metodo di trasmissione e di distribuzione dei contenuti televisivi, sta acquisendo e acquisirà probabilmente in futuro sempre più rilevanza, perché il costo delle reti terrestri, laddove si vuole raggiungere grande copertura, comincia a diventare importante. Lei sa, penso bene, che il settore complessivo del broadcasting, sia radio che televisione, non versa in condizioni ottimali, di conseguenza è possibile che il satellite venga riconsiderato non più semplicemente come mero tappabuchi di quelle piccole marginali parti di utenti che non vedono perché non sono coperti, ma possa acquisire magari anche un ruolo un po' più rilevante. TVSAT, le devo dire che ha raggiunto 1.800.000 carte attivate qualche giorno fa, quindi ha già comunque come piattaforma una sua appetibilità. Sì, interessante. Gianfranco? Sì, una domanda per Sigismondi. Flash, visto che su satellite abbiamo sicuramente un costo della banda inferiore, quindi sarebbe possibile trasmettere di più e meglio, la qualità dei canali TVSAT è identica, cioè lo stream digitale è lo stesso che viene distribuito sulla rete terrestre, o è qualitativamente maggiore? Quale dei due? Insomma. Ma allora, non c'è una risposta univoca, dipende molto dalle scelte dei singoli editori. Così flash a una domanda flash, direi che è un pochino meglio. Molto bene, io ringrazio Alberto Sigismondi, consigliere delegato di TV. A presto, buon lavoro. Grazie mille per il lavoro che state facendo, utilissimo. Grazie anche a lei. Dunque Gianfranco, noi dobbiamo concludere, abbiamo un minuto. Alcuni potrebbero dire: vedete, se ci fosse la fibra distribuita in tutto il paese, beh, questo è anche uno dei motivi perché bisogna spingere verso quella direzione. Però per alcune cose è ancora meglio oggi il broadcast. Sì, beh, sicuramente, diciamo che la Comunità Europea ha dato già indicazioni che per le utenze residenziali dovrebbe essere preferito il cavo e quindi mai la fibra. Questo e lettere per i servizi in mobilità. E lettere per i servizi in mobilità. Certo è che ci sono alcuni servizi, la cosiddetta TV lineare, quindi quella tradizionale, a quale siamo abituati, broadcast tradizionale, che l'etere, soprattutto quello satellitare, mi viene da dire, può essere utilizzato con gran vantaggio. Per esempio, potremmo avere tutti i canali in alta definizione, cosa che forse nel 2013 sarebbe quasi un diritto, visto che abbiamo speso molti soldi nei TV in alta definizione. Ci sentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.